Collane d'oro, vesto uovo, fai uovo, ti scapperanno, yeah. E a te che piace l'oro, lì pop, capano, spacco, bitch col cuore, fai che le scappe. Di marca collane d'oro, vesto uovo, fai uovo, ti scapperanno, yeah. E a te che piace l'oro, lì pop, sono un po' fatto come burr. Fate flex, gang, yo, già che ci stai, caccia uno skrrr. Per ignorarvi faccio una J-Lor, me sto fatto, freo, ok. Anche a scuola, ehi, sei Mari Mary Jane, nel mio backpack, ehi. Voi solo tre babbei, senza di lei sareste tipo il nulla totale, yeah. Questa mi manda nota vocale nei DM, vorrebbe essere mia lady, ci penso un po', ti scrivo un'email. Non sto con bitch col cuore fake e le scarpe. Di marca collane d'oro, vesto uovo, fai uovo, ti scapperanno, yeah. E a te che piace il low, lollipop. Vedo mon fraro che sto il top, tu flow per flop. Prendi un sacco tipo box, perché non spacchi, dici boh. Se parli non ti ascolto, oh no no no no no no. Per evitare i problem sono comodo, comodo, mi leggo un altro DM. Questa vorrebbe colpa del no, hip hop,